queste tristezze, di queste caducità è piena la vita. Quel buon bicchiere finisce, quella buona tazzina di caffè finisce. I mondiali. Torno a ripetervi perché a me ha fatto una grande impressione. Ero passato più volte davanti allo stadio olimpico, durante i mesi, le settimane, le ore della preparazione. Ma che cose hanno fatto a Roma, quanti miliardi hanno speso, giardini, giardinetti, strade nuove, quanta gente, quante grida. E poi sono passato un giorno dopo, due, mamma mia che deserto, e camionette cariche di rifiuti. E dov'è tutta quella gente? Dove sono quegli 80.000 che gridavano, che urlavano a seconda dell'andamento della partita? E dove sono andati quei giocatori che avevano pestato il campo, il prato verde dello stadio, avanti e indietro, correndo? Come? Che silenzio! Non si può rimanere indifferenti. Tutto è caduco, meno che lo spirito umano. Siamo un grande mistero, amici. E se io mi trovo davanti a voi come in atto di adorazione, è perché adoro in voi il mistero di Dio. Chi si accontenta gode, ma chi è che può accontentarsi di noi? Definitivamente, pienamente, soltanto in Dio. La Madonna che questa mattina abbiamo invocato, più bella dell'aurora, fu salutata dall'Arcangelo Gabriele con una parola che ci spiega tutto. Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Piena di grazia, il Signore è con te, piena di Dio. Oh, dell'aurora tu sorgi più bella. Ah, certo. La Madonna, pur vivendo nella estrema povertà, perché sia lei che Giuseppe, ambedue discendenti della famosissima casa reale di Davide, ambedue originari di Betlemme, anche se vivevano caduti in povertà a Nazareth, il paese più povero di tutta la Palestina. L'arcangelo non la saluta piena di grazia perché fosse ricca. Ricca non era. Perché abitasse in una reggia, perché reggia non aveva. Non l'ha chiamata piena di grazia perché avesse tanti diplomi, né manco il diploma di maestra d'asilo. Perché la saluta con quel complimento? Piena di grazia perché il Signore è con te. Io mi auguro che possa dire così il vostro angelo custode: caro il mio Peppino, Antonio, Renzo, tu sei pieno di grazia, il Signore è con te. L'ultima confidenza. Passando accanto a qualcuno di voi, io ho sentito la presenza di chi? Di Dio. Che cosa deliziosa. Ma penso che se passassi accanto a ciascuno di voi in questo momento, lo sentirei in tutti voi, vero? Vi vedo avvolti di una luce che non è quella solita. Siete belli, pieni di grazia. Il Signore è con voi. Il resto conta poco. Relativamente poco, relativamente nulla, ma essere pieni di Dio, questo è il gaudio. Chi si accontenta? Di chi? Di Dio. Gode, gode di quel Dio che è inesauribilmente felice, sorgente inesauribile di pace e di gioia, di soddisfazione. Non andate a cercare fuori di Dio. Vi trovereste sempre con le labbra a riarsi come chi ha febbre. vi trovereste sempre con le tasche vuote come chi ha le tasche rotte e sempre vuote.